La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Avvisiamo gli ascoltatori che questa puntata di La Bella Estate è sconsigliata alle persone che soffrono di disturbi legati all'assunzione di sostanze zuccherine. Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di me, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo male, caro. E sembra di tuffarsi nel miele quando sento questa canzone, che sicuramente è una delle mie preferite. È la faccia di tutti quelli che dicono che è una brutta canzone. Anche Elio e le Storie Tese fecero una presa in giro di questa canzone, e invece Pasquale Panella, che non creditato è l'autore del testo di questa canzone, mi disse: ma è inutile fare la presa in giro di una canzone che è già la presa in giro di una canzone d'amore. È un gioco intellettuale talmente sofisticato che non lo capisco nemmeno io. 800 24 00 24 per mettersi in contatto con me, magari possiamo cantare insieme questa canzone, è un sogno che ho da una vita, facciamo un karaoke. Oppure per parlarmi delle vostre storie d'amore estive che non arrivano all'autunno, perché oggi il tema della puntata è, fatemi prendere fiato, e tu capelli bagnati chissà che storia sei, magari a Milano io ti darò del lei, ovvero le storie che nascono diciamo in spiaggia, queste località dove andate voi a fare le vacanze, e poi durano una settimana, due, tre, un mese a dir tanto. Dopodiché ognuno a casa propria, chi si ricorda più di chi era lei, chi era lui, non si sa chi erano loro, non lo so. Ciò che resta in mente è magari un pezzo musicale, non come questo, ma come quello di Marcella Bella, a cui abbiamo rubato il verso per dare il titolo al programma oggi. Un'altra canzone favolosa, un esempio di simbolismo, ecco, abbastanza simbolista questo testo, perché lei è a Rio de Janeiro, lei è a Riccione, ma pensa di essere a Rio de Janeiro, tant'è vero che si confonde. Sentite cosa sta cantando adesso, non lasciarmi l'indirizzo, lo perderei. Ma oggi è impossibile perdere di vista le persone, perché c'è quella bestia di rete, di internet, basta mettere dentro nome e cognome e vi appare tutto. E siccome tutti stoltamente siete su Facebook, vi trovano, è inutile scomparire, vi trovano ovunque. D'altronde su Facebook ci siamo anche noi, c'è la pagina della Bella Estate dove dovete andare, perché c'è un quiz con concorso finto in corso in questo momento, dovete indovinare che è un personaggio, andateci sulla pagina della Bella Estate. Ma la mia più grande soddisfazione nel fare questo programma non è stato essere qui, oppure anche essere pagato, che poi è uno dei motivi principali, ma aver potuto chiedere a Marcella il 13 luglio scorso, durante la telefonata in diretta, che cosa significava il verso di Rio de Janeiro quando lei dice, portandosi dentro il telefono, Catherine. Che tu vai in vacanza, però ancora a testa c'hai il telefono, tutte le cose del lavoro, dell'ufficio, tutte le rotture di scatole. Quindi vai in vacanza ancora con il suo telefono che ti suona in testa. Un filosofo vero e proprio, Marcella, ci ha dato la spiegazione di questo verso. Allora, siete pronti? 800 24 00 24, siete stati abbandonati, avete avuto una storia che vi ha segnato, oppure volete mandare, volete fare un appello, volete dire torna, Pier Giorgio, ti ho perdonato, cioè, sono qui a vostra disposizione, storie estive che non sono arrivate in città, anche perché... La musica estiva poi aiuta a dimenticare. Tantissimi anni fa c'era un pezzo della Formula 3 che era praticamente il manifesto programmatico della vacanza estiva. Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. so, è come sempre un delitto chiudere così queste canzoni, farle sentire solo un pezzettino, fa niente. Era veramente l'emblema della vacanza. Lui va in vacanza, si dimentica della fidanzata a casa e ne trova un'altra, poi si dimentica dell'altra e cosa fa? Torna in città e dice: no cara, torniamo insieme, ci vogliamo comunque sempre tanto bene. Lei intanto in città cosa faceva? Non pensava al fidanzato, ma era lì che sfogliava i giornali di gossip, perché i VIP, o presunti tali, cosa fanno d'estate? Si riempiono di corna, i giornali ci campano e voi sulla spiaggia o a casa li leggete. Ma anche in TV ormai, ci sono tante televisioni, sapete, sul digitale terrestre, sono la mia disperazione, televisioni che pur di mandare in onda qualcosa, mandano in onda il peggio. Ce n'è una da cui ho rubato questo pezzettino dedicato agli amori estivi dei VIP. Poeti lo hanno definito spesso una stella cadente e in effetti a volte dura il tempo di una vacanza. Ma l'amore estivo è come un buon gelato, si assapora a fondo anche se dura poco. E così con l'estate iniziano le forti emozioni per gli ormoni ballerini di tante nostre star che riempiono le pagine dei rotocalchi con i loro flirt, con tanto di foto hot in prima pagina. Come dimenticare lo scorso anno l'ennesimo amore estivo dell'immobiliarista Stefano Ricucci con l'ex pupa Floriana Marincea, durato appena il tempo di una vacanza. Ma anche la passione esplosa a fine agosto tra 800240024, se le vostre notti sono ancora oggi angosciate dal ricordo dell'amore estivo di Ricucci dell'anno scorso. Io non mi ricordavo neanche più chi fosse Ricucci, figurati se mi ricordo del suo amore estivo dell'anno scorso, non si sa. Abbiamo un ospite al telefono, un ospite importante, perché finalmente potrà far luce su un mistero che mi dà l'angoscia da tantissimo tempo, altro che Ricucci. Perché le canzoni estive d'amore hanno sempre questo senso malinconico, insomma, va sempre a finire male. Lui è Riccardo Fogli. Non finisce così un amore così, io non posso immaginarti lontana. Pronto? Pronto? Ah, è andato via Riccardo Fogli, è caduta la linea da Riccardo Fogli, richiamatemelo subito, fate in modo che sia qui con noi, perché questa canzone qui non finisce così. Come non finisce così? Come dovrebbe finire se non così? Vabbè, non lo so, in attesa che la chiamiamo, che richiamiamo Riccardo Fogli, vi ricordo 800240024 per raccontarmi anche i vostri amori estivi. Abbiamo un nostro filosofo di riferimento, una grande amica della bell'estate, Vladimir Luxuria, ormai la conosciamo da parecchi giorni, e ogni giorno ci lascia una pillola di saggezza. E poteva tacere a proposito degli amori estivi? Certo che no. La prova a cui deve sottostare una relazione sentimentale per vedere se ha delle basi solide è, direi, giugno. Quindi se tu superavi la prova di giugno, voleva dire che la tua relazione era una relazione seria. Perché generalmente la gente che faceva? C'è un detto che dice: andare in vacanza al mare con la propria fidanzata è come andare alla festa della birra a Monaco portandosi una lattina di birra da casa. Sembra un po' questa l'idea. Quindi c'era un po' l'idea che d'estate si cambia città, si stacca dal mondo del lavoro e, perché no, ci si stacca anche dal partner e si cercano i famosi rapporti occasionali, i fatidici rapporti occasionali, stagionali, ecco, mensili se non settimanali. Poi queste grandi, sembrano grandi passioni, no? Fuochi sì, di paglia o fatui. Perché poi ci si riprometteva, quando finiva l'estate, di vedersi, e se venivi da due città diverse proprio vabbè, ma persino se venivi dalla stessa città, alla fine niente, era diverso il contorno, diverso il contesto, si ritornava alla normalità, si ritornava al lavoro e si riprendeva ciò che si era lasciato indietro, la vecchia fidanzata o il vecchio fidanzato. È abbastanza anche amaro questo commento di Vladimir Luxuria. Nel frattempo mi sa che è stata ripristinata la comunicazione. Pronto Riccardo Fogli? Sì, sono qua io, pronto. Oh, eccolo lì. Avevo fatto tutto un ingresso. Sentito. È stato il mio cuore impazzito nel cercare di darti una risposta intelligente che ha fatto scoppiare il telefono. Ma la risposta c'è o no? Non me la ricordo la domanda. Ah, la domanda, allora rifaccio la domanda. Allora, Riccardo Fogli, come mai nelle canzoni estive d'amore non va mai a finire bene? Cioè, finisce l'estate e finisce l'amore? Sì, perché perché era inverno, si deve cominciare a capo. Sì, l'estate dovrebbe essere dedicata all'apertura mentale, alla benzina, per poi di autunno scrivere nuove canzoni. Ma non è il mio caso, io sono quasi fedele, cioè, ora sono molto fedele, però sì. Nella vita. Sì, ora sono fedele, guarda, prima di tradire la mia moglie mi taglio i capelli, perché ecco, limitiamoci a quello. Quindi basta con gli amori stagionali e avanti con l'amore stagionato, perché insomma bisogna avere Stagionato. Stagionato nel senso che bisogna trovare serenità nel nostro cuore. Io sono sposato da poco, sono molto felice, possiamo parlare del passato, ma il mio presente è limpido come l'acqua di sorgente. Siamo felici, ma più che parlare della vita privata, noi vogliamo parlare delle canzoni, perché io sono andato a rovistare un po' nel corpus canoro di Riccardo Fogli e ho trovato una canzone che si chiama "È meglio se amore non diventerà". E mi sembra una bella scusa. Uno dice vabbè, facciamo qualcosina, però poi ci fermiamo qua. Meglio se non diventa amore. Ti devo dire la verità, che in certi momenti sarebbe meglio mettersi d'accordo subito. Tanto perché si soffre un pochino meno. Seriamente, l'amore fa soffrire, perché se ce l'hai hai paura di perderlo, se non ce l'hai sei solo come un cane. Sarebbe fichissimo riuscire a stabilire che è meglio se amore non diventerà, però amiamoci come se ci innamorassimo per tutta la vita. Anche perché poi, se no, finiamo nell'altra canzone che ho trovato, Disperato. Disperato che farai, ora sei da solo. Oddio santo. L'uomo solo è quella è unica sulla quale abbiamo scritto libri e libri. Però alla fine, vedi, c'è sempre di mezzo l'amore. Te hai mai sentito scrivere una canzone di uno che è disperato perché ha trovato la panineria chiusa? No. Però sarebbe un'idea. No, non è un'idea, è solo l'amore che muove il mondo, e quindi noi ci crogioliamo in questo grande affetto, e ti giuro che le più grandi emozioni sono quelle dell'amore, che ce l'abbia o non ce l'abbia. Se sei in crisi con la donna che ami, è una crisi forte, però, non è come quando non ti parte la macchina. Certo, però Riccardo, devi ricordarti anche chi era lei, perché sennò finisci come nel testo di Era musica, era amore, in cui tu dici: cadeva l'acqua e ti scioglieva il rimmel, lavoravi dove non mi ricordo, ti venivo a prendere, cioè andavi a prenderla e non ti ricordi dove. Cioè... Vabbè, ma tu non è che vai, ami una donna perché lavora da una parte e lavora dall'altra. Qui l'amore è essenziale. Quando hai di fronte alla donna della quale sei innamorato, tu non sai che giorno è, ti piove addosso. Può essere, se sei innamorato, può essere anche un uomo. Sei innamorato, tu hai un bel ricordo di un momento d'amore, è così. Le canzoni sono queste. Guarda, non ho voluto parlare del tuo periodo nei Pooh, perché lì erano ancora più disperate le cose. Sai a me cos'è che fa molta impressione di quel periodo? Alessandra. Te la ricordi? Alessandra è un momento magico in cui un ragazzetto, forse di 20 anni o di 19 o 18, dice alla sua ragazza: non preoccuparti, non ti preoccupare di dirmi che sei incinta, io riconoscerò il nostro figlio, lo cresceremo insieme. E lui analizza che lei gli ha detto poco fa che quel dubbio era realtà. Quindi, ma che bello, questa è un'altra forma d'amore, qui non c'entra niente il sesso. Ma qui c'entra la sfiga, perché lei era la prima volta che lo faceva ed è rimasta già praticamente incinta. Vabbè, un po' cattivo. Magari tu pensa quante donne sterili, quanti uomini non ci riescono, allora la prima volta fanno un bel bimbino. Ma lo racconterei ai genitori di lei anche. A me piacerebbe scrivere una cosa teatrale che si chiama Il figlio di Alessandra, in cui c'è finalmente il bambino che è diventato un uomo e parla. E si rivolge al padre. Potresti essere te, però. Il bambino, no, ti assicuro che non posso essere io, perché l'ascoltavo già, ero militare praticamente. No, circa no. Però è bella questa cosa, è intelligente, con un po' di ironia e un po' d'amore, perché in realtà io ho avuto ospite da me in questi giorni, qui nella Maremma, dove c'ho un piccolo bed and breakfast, non faccio nome, e io mi ha portato una fotografia, lui era sulle mie ginocchia, adesso è 1,90 m questo figliolo. Quindi sarebbe bello scrivere. Guarda che magari lo faccio veramente e poi ti richiamo. Sì, possiamo anche scriverlo a quattro mani. Volentieri. È una promessa che fai qui dai microfoni della bella estate. Riccardo, senti, grazie tanto per essere stato con noi e per aver scherzato anche con noi sui testi delle tue canzoni. Sì, mi piace scherzare, anche se pensano, se tanta gente pensa che io mi pianga addosso e che in assoluto canti solamente l'amore, la vita è meravigliosa perché ha anche l'amore. Beh, grazie, con quest'altro messaggio ringraziamo Riccardo Fogli. Ciao Riccardo, grazie. Ciao, a presto, buona estate a tutti. Ciao, grazie. Ci sono già i primi ascoltatori, l'800240024, c'è Gianni dalla provincia di Milano, pronto? Pronto? Oh, eccoti qua, cosa mi devi raccontare? Dunque, noi siamo un gruppo di 5 amici. Sì. Siamo andati a Rimini a fare le vacanze e cosa è emerso? Cosa? Bisognava trovare delle compagne del sesso opposto. Sì. Ebbene, loro, gli altri non avevano la verba di poter caricare le altre ragazze. Erano allora, timidi. Sono andato io a cercarle. Ah. Allora, ne ho provato una, sì. Ho detto guarda che c'è una festa, così così, se vuoi no, venire. Momento, Gianni, in che modo l'hai provata, scusa? Cioè, prego? In che modo l'hai provata? Allora, ero sulla spiaggia, sì. E sulla spiaggia ho parlato prima con la signora che affittava gli ombrelloni e così, ho detto, conosci delle ragazze, c'è una festa qui così nella villetta, eccetera, eccetera. Lei mi ha detto, guarda c'è quella lì, c'è quella, allora mi ha dato un po' di dritte questa tizia qui, no? Sì, questa signora prima della legge Merlin che lavoro faceva, non te lo ricordi? Lei niente, aveva in gestione. Appunto, dico in gestione una, va bene. Allora, comunque è andato tutto bene, alla fine i tuoi amici si sono uniti con queste ragazze? Sì. Sì, allora io ne ho preso una e l'ho accompagnata a casa. Sì. Ho detto, guarda che ci sono già delle altre ragazze, ma non era vero. Ci sono già delle altre ragazze, così facciamo una festa, va bene. Allora è venuta, vestita, ok, tutto bene. Vestita, ok. Dopo, sì. Quando l'ho portata a casa, sì. Sono andata a beccarne un'altra. Cioè, e così via, e fino a quando ho trovato la quinta. Ma sei una calappiacani tu praticamente. No, c'è modo e modo di abbordare le persone. No, comunque l'importante è, dimmi una cosa, è andato tutto bene? Vi siete accoppiati? No, è andato come tutto no? Bene, è andato tutto bene un corno. Perché? Cosa è successo? È successo che al momento della festa, sì? Tutti pensavano di dover ballare con me. Eh già, perché è vero, eri andato a prenderle tu. Esatto, poi dato che le portate una a una, no? E dice, ma le altre dove sono? Adesso arriva, aspetta che la vado a prendere, Morale della favola, alle 8 abbiamo incominciato, diciamo così, la festa. Sì. In effetti è cominciata alle 9:30, ora che sono arrivate tutte le altre 4. Certo. Poi, quando hanno visto che c'erano gli altri 4 amici, hanno detto, ma io volevo ballare con Gianni, ma io volevo stare con Gianni, c'è stato un momento di parapiglia che quasi quasi una rissa ci scappava. Poi invece, ragionando, facendo le parlare con calma. Questo è un film di Pupi Avati, mi sembra. E diciamo che è andato tutto a tarraluce e vini, ecco, è andato bene e abbiamo avuto delle splendide relazioni. Oh, che meraviglia! Allora finalmente possiamo celebrare con te, vai! E tutti lì in 5, in 10, tutti insieme tra tarraluce e vini, perché l'Italia è il paese del vino, uno non basta, ci sono vari tipi, c'è chi piace bianco, chi piace rosso. Sentiamo Fulvio dalla provincia di Sondrio. Pronto, Fulvio? Sì, ciao Tommaso. Ciao. Ciao. Allora, io ti chiamo perché se si sente spesso dire che la regola, diciamo, negli amori estivi sono cose passeggere che poi terminano con dolori da una parte e dall'altra, ecco, voglio dire che ci sono anche delle eccezioni, perché per esempio a me è capitato che parecchi anni fa ho conosciuto durante una vacanza studio estiva una ragazza bellissima, ci siamo innamorati, abbiamo sì. passato una bella vacanza insieme e poi naturalmente ognuno è tornato a casa, città. Certo. Però abbiamo continuato a sentirci, a telefonarci, ci siamo rivisti e insomma sono 20 anni che siamo sposati, abbiamo un bel bingo e siamo felicissimi. Ma che bello, avanti allora! Ecco qua, vi chiamate trottolino amoroso tra di voi o no? Ma sì, a volte, qualche volta. Ma sì, proprio nell'intimità, certo. Quando non vi sente nessuno. Certamente, dai. Certamente. Beh, complimenti allora per altri okay, 20-40 anni. Ciao Fulvio. Ciao. La musica prende sempre spunto dall'amore, ma l'amore prende spunto dalla musica? A volte sì, a volte no. C'è una coppia finlandese che conosco solo io, voi naturalmente non la conoscete, si chiamano, adesso vado a vedere come si chiama, ecco qui, si chiamano Armi e Andy. Vi faccio prima sentire il pezzo, poi vi racconto qualcosa. Tahdon sulle olla hyvin hellä, oisit mulle kukka kämmenellä. Tuskaa sulle en voisikin mä tuottaa. È un pezzo meraviglioso che vi consiglio di ascoltare, che si chiama Tadon sulle olla Ivinella. Io purtroppo il finlandese lo parlo malissimo. Lei ha Armi, purtroppo non c'è più, dal 2002, è stata Miss Finlandia nel 77 e lui Danny, non Andy come ho detto prima, è una specie di Salamone che ancora canta in Finlandia. Li hanno messi insieme per ricreare in Finlandia la coppia Albano e Romina Power, quindi come vedete l'Italia ha ancora il suo peso nel mondo, per modo di dire. Hit Parade, poi vi dico che anno è. Hit Parade! Numero 10, Hideaway, di Lesi. Numero 9, Dancing with an Angel, W. Numero 8, Memories, Network. Numero 7, Space Cowboy, Jamiroquai. Everything has got with a sunshine smile upon my face, my friend, a glass at hand, you know my head of visions have disappeared without a trace. I'm mad. Numero 6, Rub Me Up, Alex Party. Numero 5, Angel, Jam and Spoon. Numero 4, Two Can Play That Game, Bobby Brown. Numero 3, Scatman's World, Scatman John. Numero 2, Try Me Out, Corona. Numero 1, The Color Inside, Typical. '95, perché ho scelto quest'anno? Perché mi sembra improbabile che qualcuno si sia innamorato con queste colonne sonore, cioè come puoi innamorarti con questa musica? Non lo so, se qualcuno l'ha fatto mi chiami 800 24 00 24. Immagino i due che si sono incontrati, non so, in un rave, in qualche discoteca riccione, sono ancora lì a casa invecchiati ma sconvolti e ballano ancora e si picchiano ballando. Sulla pagina Facebook della Belle Estate stasera troverete il video di Armi e Danny, che tratto da un programma televisivo del 78 della televisione finlandese, che poi è diventato uno di quei tormentoni di internet nel 2006 in Giappone, esplose. Ve lo metto così potete vederlo. C'è un SMS intanto che è arrivato, dice: io abitando alla Spezia, meta turistica balneare, tra i 16 e i 18 anni ho avuto tre storie con straniere, due del Belgio e un inglese. Quando finivano un po' male ci si rimaneva puntini in sospensione. Tre soltanto. E ci mandi l'SMS per tre storie soltanto. Vabbè. 800 24 00 24, cercate di battere il suo record. Per ora c'è la borsa. La bella estate. Eccoci, e poteva mancare il momento La Branca, no, eccolo qui, il momento mio personale, le mie canzoni d'amore sono queste, il Joy Division, che dopo tutto il miele che abbiamo sentito è come bersi un bicchiere di candeggina, ma che a me piace tanto la candeggina, ci brindo anche. Allora, meglio purtroppo, cioè questa era la musica degli anni Ottanta. Gli anni Ottanta erano considerati un po' freddi, almeno c'era una certa parte di popolo che si comportava in maniera molto fredda. Meglio comportarsi in maniera molto fredda che vedere le storie d'amore nascere d'estate e finire nei primi d'autunno, come dice una grande cantante degli ultimi anni. Non hanno mangiato il panettone questi due, a novembre è finita e addio. Poi lui a un certo punto, lei non dice mai il nome di lui, ma capiamo chi è, perché dice: e tu parlavi senza dire niente, praticamente Massimo Cacciari, il filosofo, solo lui parla senza dire niente. Per fortuna che l'amore a volte è anche diverso, nel senso che nasce in maniera molto romantica, però bisogna essere adolescenti per poter essere così, o almeno fingere, perché nel film erano tutti belli cresciuti. Quale film? Questo. Inutile, oh, non ci sai fare come moto. No, anzi, io la faccio andare al massimo. Non sono come te, che da quando ti sei innamorato non pensi neanche più alle corse. Perché ti sei innamorato, vero? Non pensi sempre a lei? Non vedi l'ora che ti telefoni? Non ti batte il cuore quando la vedi? Sì. Quello già che mi sono innamorato. Ma lo sai che quando sei innamorata diventi paranoica e rompi palle? Ma anche quando non lo sei, signorina. Questo qui era Tre metri sopra il cielo, versione italiana. Perché vi do questa notizia, che forse sanno in pochi? Invece di doppiarlo in Spagna, l'hanno rifatto, e questo è il trailer. 200 por hora. A toda hostia. Dime ahora mismo que no has venido en esa moto. No quiero enterarme de lo que pasa alrededor. Si chiama proprio Tre Metri Sopra, lo spagnolo mi rifiuto di impararlo, comunque Tre Metri Sopra il Cielo, una cosa del genere, tant'è che poi ha avuto successo anche in Croazia, sottotitolato in croato, ma perché non hanno preso la versione italiana direttamente non si sa. C'è Ermanno dalla provincia di La Spezia, pronto? Buongiorno. Buongiorno Ermanno. Allora, io di panettoni ne ho mangiati 48. Ah, per fortuna, anche colombe immagino. 48 colombe. Anche qualche uovo mi ha toccato. Ma quando è stata la prima volta in cui avete mangiato il panettone insieme? Dove vi siete incontrati? È la prima volta 50 anni fa in una spiaggia delle Cinque Terre a Cornigli. Quanto? 50 anni fa? 50 anni fa. Ma è un record quasi. Sì. Ma scusa, 50 anni fa, quindi proprio cos'era il pieno boom praticamente? Cioè, vi siete incontrati su una di quelle spiagge? Ma l'ho fatto io appena l'ho vista. E poi hai fatto boom sempre? Oppure poi hai detto no, sì, se dopo 50 anni sarà sempre... Oddio, ultimamente il boom non intendo quel boom, dai adesso per favore, siamo in imbarazzo. Restiamo sul romantico, senti questa cosa qui per esempio, restiamo sul romantico. Ti lavoriamo insieme da 48 anni. Anche. Ma chi siete, Albano e Romina? Ho avuto una grande pazienza. Sì, ma anche lei però, No, ma lei no, le donne sono più forti di noi. In che senso? In tutti i sensi, sono più forti in tutti i sensi. In tutti i sensi? In tutti i sensi. Sì, ma lei ogni tanto non ti dice, se quel giorno in spiaggia non fossi venuta a vedere, non so cosa facevate il falò. Ma me l'ha detto tante volte. Ah, e tu cosa rispondi? Era meglio forse anche per me. Beh, allora non è un grande amore, scusa. Cioè, è un grande amore e niente più. Vabbè, vi sentite sempre adolescenti? Com'è? Vi sentite ancora un po' adolescenti? Ma io sì, lei no. Vabbè, lei è sempre così. Però se tu ti senti adolescente, allora ti regalo quello che è l'inno dell'amore adolescenziale. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant. Pronto, Loredana De Vitis. Ciao. Ciao, ma tu questa canzone non puoi ricordartela perché sei del 78, dico qual è la tua età per cui. Sì, ma sai, c'è YouTube e quindi ho potuto recuperarla. È vero, YouTube ci rende tutti coetanei, dividiamo tutti le stesse cose, certo poi chi le ha vissute direttamente è un po' più triste. Allora, al telefono c'è Loredana De Vitis, professione scrittrice. Io l'ho visto sempre in internet, non solo su YouTube, perché mi piace trovare cose nuove, cose che nessuno ancora conosce, e ho trovato questa scrittrice. Mi ha mandato il suo libro, il libro è favoloso perché è scritto veramente bene, sei bravissima, te lo dico anche qua in diretta. Grazie. Prego. Grazie Tommaso. Vogliamo ricordare il titolo del libro? Storie d'amore inventato. Storie d'amore inventato, sono delle brevissime storie d'amore. Ma perché hai dovuto inventarle? Non le hai mai avute di storie d'amore vere? No, io ne ho avute. Amore inventato è un po' allusivo come titolo, nel senso che allude al fatto che spesso quello che viviamo non è percepito per quello che è, ma un pochino risente della nostra immaginazione, e l'estate questo è terribile. Questa cosa, perché tu dici l'estate... l'immaginazione è padrona praticamente. Non posso star da sola l'estate, tu dici, piuttosto me lo invento, ma comunque deve esserci. In qualche modo sì, è la stagione dove ci si scopre, si va al mare, c'è il sole, un po' i sensi si risvegliano e poi ci si inventa delle cose. Poi magari si vorrebbe che fossero delle cose romanticissime, adolescenziali, ma in realtà spesso non lo sono e appunto non arrivano a settembre. Tu abiti a Lecce, vero? A Lecce, sì. Ecco, quindi il mare è lì praticamente. Ecco. E ogni volta che vai al mare anche tu magari sei da sola, sei triste, perché il cinema ci ha rovinati, sai una cosa, cioè il cinema ci sta rovinando, Loredana, sì. Perché tu vai al mare e vedi una barchetta proprio di quelle tristissime da pescatori, chiudi gli occhi e ti sembra di sentire questo. E allora vai lì in punta questa barchetta terrificante, tutta rotta, e allarghi le braccia e cosa dici? Affondi. 800 24 00 24, chi di voi ha fatto quella stupidata di rifare la scena di Titanic su barche, traghetti, ghiozzi, canotti, pedalò? Il regista l'ha fatto? Ah no, la nostra Loredana, la nostra redattrice, quella che ti ha chiamato, sì. l'ha fatto. Ah, oddio. Brava! E gridava anche sono il re del mondo. Fantastico. No, allora, questa è una cosa che mi viene subito in mente. L'estate è più probabile che le cose inizino come per essere in un film. Sì. E io mi sono resa conto che più le cose sono simili ai film, più sono false. Naturale. Cioè uno schema, quando uno schema è veramente perfetto, quindi lui viene, ti offre da bere, è molto bello, capelli bagnati. Chissà che storia bene, sei, eccetera. Sì. è sicuramente una cosa terribile che ti lascerà col cuore a pezzi. Sì, e la forfora anche, perché insomma il capello. Io sai, sono ormai, ho rinunciato ai capelli da un po' di tempo, ma è una mia scelta, una mia scelta proprio per non andare in giro con i capelli bagnati. Senti, ma il suo fascino? Ah, sicuramente il suo fascino, eh sì. Come no, figurati, non se ne accorge nessuno, ma dovrebbe averlo. Senti, ma tu adesso stai scrivendo, sì? Sì, adesso sto scrivendo. Ecco, ma se uno volesse trovare il tuo libro, perché so che il tuo libro è un'autoproduzione, perché a me piacciono anche le autoproduzioni. Sì, è un'autoproduzione, però è nel circuito Il Mio Libro, e quindi si trova sia sul sito ilmiolibro.it e anche nel circuito Feltrinelli, sia online sia nelle librerie. Sì, allora concludiamo dando bene il nome del tuo sito. Sì, www.loredanadevitis.it. Grazie, buon resto d'estate, Loredana. Grazie a te, Tommaso. Sono ciao. Il re del mondo, ciao, ciao. Ciao. Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è difficile un anno senza te. Che anno era quello di cui parlavano in Santo California? L'anno del militare, naturalmente. Questo era un concept album. Lui partiva per il militare, lei restava un anno, non è un secolo, e poi si scrivevano nelle altre canzoni. Lei lo riempiva di corna, lui tornava da militare proprio nel momento in cui lei si stava sposando in chiesa. Cioè, veramente una trappola, un soggetto che a Hollywood se lo sognano. E un pezzo italiano che ascoltavano le turiste tedesche in Italia, poi tornando in patria, nella lontana Germania, mica tanto un'ora di volo, nella lontana Germania sognavano, e cosa hanno fatto i perfidi produttori tedeschi? Hanno fatto questo. Ma in zucco al tenenpano fai in diesem Augenblick. Fährt bist du allein. Le tedesche piangevano mentre andavano a lavorare al Telefunken, queste macchine, queste fabbriche enormi, magari anche nell'est. Giovanni, dalla provincia di Vicenza. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, io sto dando un'occhiata a quello che mi scrivono. Mi dicono che tu hai abitato in Finlandia. Sì, ho fatto l'Erasmus in Finlandia. Ecco, perché ecco, perfetto, ma guarda, c'è veramente un'entità sovrannaturale, perché prima si andava a militare un anno, adesso si va l'Erasmus. Non è la stessa cosa, però all'incirca un allontanamento. E cosa hai fatto in Finlandia? Cosa hai visto? E oltre a fare la tesi di laurea, così la tesi di laurea, ho cantato tante canzoni nei karaoke in mezzo a tutti questi ubriaconi, perché l'unico passatempo. Ecco, ci siamo rovinati anche i rapporti con la Finlandia. Bene, già i tedeschi, adesso anche i finlandesi definiti ubriaconi, l'ha detto lui o no? No, ma è comprovato. Ah, è comprovato, va bene, sì. E cosa facevano? Cosa facevano? Che l'unico divertimento la sera era andare al karaoke, perché comunque veniva freddo, veniva il buio, scendeva presto. Allora alle 3:30 del pomeriggio tu dici cosa faccio adesso? E quindi dopo cena si andava a cantare al karaoke. La cosa sconcertante è che c'erano tutte le canzoni d'amore italiane. Sì. In finlandese, ed era una cosa orribile. Perché loro non le scrivono delle canzoni, praticamente devono usare le nostre. Esatto, ma anche quelle spagnole, ci sono persino le canzoni napoletane. Sì. O Sole Mio, O Sudato Innamorato, che tradotte in finlandese. Cioè, ma sempre col mandolino però. Sì, sempre col mandolino. Chissà come sono contenti i finlandesi. Ma tu la canzone che abbiamo mandato prima la conoscevi? La canzone che avete mandato prima non la conoscevo. Bene, te la faccio risentire un po'. Tahton sulle olla hyvin hellä. raccomando, mi raccomando, stasera tutti sulla pagina Facebook La Bella Estate potrete vedere questo video, perché il video ha una coreografia che era nata per essere erotica e seducente, dice il sito. In realtà è una delle cose più ridicole che si siano mai viste, non solo su internet, penso anche dai tempi dei graffiti di Altamura. Allora, pronto, Claudio da Milano. Pronto. Pronto. Ciao. Ti sei definito esperto di amori estivi. Avanti, insegnaci qualcosa. Insomma. Come insomma? Prima lo dici. No, è stata una cosa incidentale. Ah, sì. Ho fatto un'unica esperienza di animatore turistico per una stagione e di conseguenza mi è toccato, insomma. Cioè, nel pacchetto clienti c'è anche quello? No. Grosso modo, sì, dai. Insomma. Allora, dici tutto, dove eri, in che località eri? Dunque, ero in Sardegna, in un ridente villaggio di un tour operator che adesso non esiste neanche più, quindi è passato molto tempo. Sì. E io però non facevo le solite attività che sono, diciamo, più propense al contatto con l'universo femminile, perché seguivo i bambini. Ah, beh, allora. E quindi io ero praticamente quello che ha ottenuto lo score minore rispetto agli altri, perché agli altri che facevano... Ma qualche mamma si avvicinava? Niente. Che? Allora tu cosa facevi? Andavi, cioè, c'era una barca, sì. Una barca, c'erano, sì, le canoe. Quindi tu ti mettevi lì sulla canoa, sulla prua della canoa, allargavi le braccia e poi via. Ma restava da solo, naturalmente, diceva sono il re del mondo, così poi si buttava giù e fingeva, vabbè, i film ci rovinano. Sentite, io mi sono stufato di parlare di mare, domani si parlerà di montagna, la puntata si chiama Ho voglia di Zeno Colò e parleremo finalmente di quelli che vanno in montagna. Per oggi abbiamo finito, è stata veramente una galoppata, grazie a Mauro De Angeli in regia, grazie a Viola Bottoni, detta il re del mondo d'ora in poi, che fa le cose del cinema. Ci sentiamo domani, mi raccomando, tutti in montagna, ciao.